Ciao a tutti, mi chiamo Chiara, sono attrice e voglio leggervi un racconto tratto dal Necronomicon di H.P. Lovecraft. Lovecraft che, insieme al grande Edgar Allan Poe, hanno fatto del sogno, del soprannaturale e quindi dell'orrore il proprio cavallo di battaglia. Il racconto che vi leggerò si intitola La casa sfuggita. Capitolo 1. È raro che l'ironia sia assente anche dagli orrori più grandi. A volte entra direttamente nella composizione degli avvenimenti. A volte si riferisce piuttosto alla relazione che si stabilisce per caso fra certi luoghi e persone. Uno splendido esempio di quest'ultimo tipo è dato da un evento che si verificò nell'antica città di Providence, dove intorno alla metà del secolo scorso Edgar Allan Poe soggiornava spesso durante l'infruttuoso corteggiamento della poetessa Sarah Helen Whitman. In genere, Poe si fermava alla Mansion House in Benefit Street, l'ex Golden Bull Inn, che aveva ospitato sotto il suo tetto Washington, Jefferson e Lafayette, e amava fare una passeggiata lungo la stessa strada, verso nord, per arrivare a casa della signora Whitman e al cimitero di St. John, che sorge sul fianco della collina. Per lui, quella distesa un po' nascosta di tombe del XVIII secolo aveva un fascino particolare. L'ironia sta in questo. Durante la passeggiata, sempre la stessa e ripetuta tante volte, il grande maestro del macabro e del fantastico era costretto a passare davanti a una certa casa sul versante orientale della collina. Un edificio antiquato, male in arnese, appollaiato sul fianco della collina, che in quel punto sale improvvisamente, e circondato da un giardino a cui nessuno badava più da tempo, ma che datava dall'epoca in cui quella parte della città era ancora aperta a campagna. Sembra che Poe non ne abbia mai parlato e mai scritto, e non ci sono prove che abbia annotato la costruzione in modo particolare. Eppure essa, per chi sia in possesso di certe informazioni, eguaglia e supera in orrore le più sfrenate fantasie del genio che tante volte ci passò davanti senza vederla. E ancora oggi si leva come un simbolo beffardo di tutto ciò che è repellente e mostruoso. Si trattava, anzi, si tratta ancora, di un edificio fatto apposta per attirare l'attenzione dei curiosi. Originariamente, e almeno in parte, era una fattoria costruita nello stile medio del New England settecentesco. Aveva il tetto appuntito e spiovente, due piani più un attico senza camere da letto, la porta d'ingresso georgiana e l'interno rivestito in legno secondo il gusto del tempo. Era rivolta a sud, con un abbaino che sovrastava le finestre più basse di fronte al fianco ripido della collina e l'altro che dava sulla strada. La costruzione, che risale a più di un secolo e mezzo fa, aveva visto la nascita e la trasformazione della via che le passava accanto, perché Benefit Street, una volta chiamata Back Street, era stata concepita inizialmente come un viottolo di campagna che serpeggiava tra le tombe dei primi coloni ed era stata raddrizzata solo quando, trasferiti i cadaveri nel North Burial Ground, si era potuto tagliare attraverso gli antichi lotti di famiglia senza commettere sacrilegio. Da principio la parete occidentale della casa svettava per 6 o 7 metri su un prato scosceso e abbastanza discosto dalla strada. Ma l'allargamento di Benefit Street, al tempo della rivoluzione, aveva inglobato gran parte dello spazio intermedio e messo a nudo le fondamenta. Per questo si era dovuto fabbricare un muro di mattoni che le proteggesse e fornisse al seminterrato, molto profondo, una porta sulla strada e due finestre sopra il livello del suolo, in prossimità dell'arteria dove si svolgeva il traffico. Quando fu costruito il marciapiede, circa un secolo fa, il poco spazio intermedio che restava fu eliminato. E nelle sue passeggiate, Poe deve aver visto solo un improvviso muro di mattoni grigi che sorgeva al limitare del marciapiede e che era sormontato, a un'altezza di circa 3,5 metri, dall'antica struttura cigolante della casa vera e propria. Il sito dell'ex fattoria comprendeva un territorio piuttosto ampio, che si estendeva su per la collina fin quasi a Wheaton Street. Lo spazio a sud, che dava su Benefit Street, era sopraelevato rispetto al marciapiede e formava una terrazza circondata da un alto muro di pietra coperto di muschio e interrotto da una ripida gradinata che fra due stretti muriccioli portava al livello superiore. Qui sorgevano un praticello stento, un'altra serie di muretti umidi in mattoni e alcuni giardini abbandonati, i cui vasi da fiori in cemento, pentolini caduti dai tripodi di fascine intrecciate e simili ornamenti del passato, inquadravano la porta, rovinata dalle intemperie. Davanti all'ingresso c'erano una vecchia lanterna rotta, una serie di colonne ioniche in disfacimento e un consunto frontone triangolare. Quel che avevo sentito in gioventù a proposito della casa sfuggita era che la gente vi moriva in gran quantità e in modo allarmante. Per questo, mi dissero, i primi proprietari si erano trasferiti una 20 d'anni dopo averla costruita. È evidente che non faceva bene alla salute e forse la colpa era dell'umidità delle cantine ammorbate dai funghi, dell'odore poco piacevole che le permeava, degli spifferi nei corridoi e della qualità dell'acqua prelevata dal pozzo o dalla cisterna. Erano motivi più che sufficienti e in generale la gente credeva che le cause fossero queste. Solo i diari di mio zio, l'appassionato di storia locale dottor Elihu Whipple, mi rivelarono infine le più oscure, fantastiche speculazioni che pesavano sulla casa e che costituivano un motivo ricorrente del folklore locale. Di queste ipotesi, vociferate dalla gente più umile e dai domestici di un tempo, nessuna ebbe larga diffusione, e quando Providence divenne una metropoli moderna con una popolazione che si rinnovava continuamente, furono del tutto dimenticate. Il fatto notevole è che la casa non è mai stata considerata dalla parte più ragionevole della comunità come infestata nel senso tradizionale. Non c'erano racconti di catene trascinate nel buio, di misteriose correnti d'aria gelida, di luci che si spegnevano all'improvviso o di facce alle finestre. Il massimo a cui si poteva arrivare era che qualcuno la definisse sfortunata, ma questo era tutto. Ciò di cui non si poteva dubitare, invece, era che un gran numero di persone vi perdesse la vita, o più esattamente vi avesse perso la vita, perché dopo certi strani avvenimenti che risalivano a una 60 anni prima, la casa era rimasta deserta e nessuno aveva voluto affittarla. Le vittime non erano morte all'improvviso o per la stessa causa. Sembrava che la loro vitalità venisse gradualmente prosciugata, di modo che ognuna si era spenta prematuramente, per effetto delle debolezze naturali a cui ciascuna era soggetta. quelle che non erano decedute mostravano sintomi d'anemia o consunzione a vari stadi e a volte un certo declino delle facoltà mentali. Tutte cose che deponevano a favore della casa e del suo clima salutare. Però bisogna anche aggiungere che le costruzioni vicine erano completamente prive di quegli spiacevoli effetti. Questo è ciò che sapevo prima che, dietro mia insistenza, lo zio Whipple mi mostrasse le sue carte e insieme ci imbarcassimo in una vera e propria indagine. Quando ero piccolo, la casa sfuggita era vuota e circondata da alberi vecchissimi, terribili, con i rami spogli e i tronchi contorti. L'erba era pallida e nel giardino superiore crescevano erbacce malate, mentre gli uccelli non cantavano mai. Noi ragazzi a volte ci avventuravamo nei paraggi e ancora ricordo il mio terrore non solo alla vista della vegetazione straordinaria e ammorbante, ma anche per effetto dell'atmosfera di schiacciante antichità che gravava sulla casa e dell'odore che l'accompagnava. Uno dei passatempi preferiti, quando volevamo procurarci un bello spavento, consisteva nel varcare la porta socchiusa e spiare all'interno. Le finestre dai vetri piccolissimi erano quasi tutte rotte e un'aria di indicibile desolazione gravava sui rivestimenti di legno deteriorati, sulle imposte interne scardinate, la carta da parati che cadeva a brandelli, l'intonaco a pezzi, le scale a chiocciola mal sicure e i pochi mobili ammuffiti che ancora restavano. Polvere e ragnatele aggiungevano un tocco sinistro. E il ragazzo che avesse trovato il coraggio di salire volontariamente la scala che portava in soffitta veniva considerato un coraggioso. La soffitta in sé era uno stanzone di assi illuminato dalle piccolissime finestre degli abbaini e riempito da un indescrivibile ammasso di bauli, sedie e filatoi che dopo innumerevoli anni di giacenza avevano assunto forme grottesche e mostruose. Ma la parte più terribile della casa non era la soffitta, quanto la cantina. Un sotterraneo umido, profondo, che per qualche ragione esercitava su di noi un potere repulsivo, benché sul lato della strada fosse al di sopra del livello del suolo. Solo una porticina e un sottile muro di mattoni interrotto da una finestra lo separavano dal marciapiede e dal traffico. Non sapevamo se esplorarlo, affascinati dai suoi misteri, o evitarlo per il bene delle nostre anime e della nostra sanità di mente. Innanzitutto, il cattivo odore che permeava la casa era qui più forte che altrove. In secondo luogo, le escrescenze fungose che spuntavano biancastre sul pavimento di terra battuta nei pomeriggi piovosi d'estate non ci piacevano affatto. I funghi, paradossalmente simili alla vegetazione malata del giardino esterno, avevano un aspetto veramente orribile. Erano una detestabile parodia di specie velenose come le canne indiane e non ne avevamo mai visti di simili. Marcivano rapidamente e a tratti diventavano fosforescenti, sicché i passanti notturni parlavano a volte di fuochi delle streghe che brillavano dietro i vetri rotti delle finestre e di sgradevolissime esalazioni. Non avemmo mai il coraggio di scendere in cantina di notte, nemmeno quando eravamo infiammati dal sacro fuoco di Halloween. Ma durante certe visite diurne, specialmente se il cielo era buio e stava per piovere, vedemmo noi stessi la fosforescenza. A volte ci parve di osservare un fenomeno più strano, ma si trattava di una cosa davvero labile. Alludo a una specie di macchia biancastra sul pavimento di terra, un contorno incerto e cangiante che stava a indicare un deposito di muffa o salnitro e che a volte credevamo di individuare tra i funghi che crescevano nella cucina del seminterrato, vicino al grande camino. Di tanto in tanto fantasticavamo che la macchia avesse una straordinaria somiglianza con una figura umana piegata in due, anche se il più delle volte questo non si notava e talora il deposito era del tutto invisibile. Un pomeriggio di pioggia, in cui l'illusione era particolarmente forte e in cui, per giunta, mi era sembrato di vedere una specie di esalazione giallastra alzarsi dalla macchia vicino al camino, parlai a mio zio della faccenda e lo vidi sorridere delle mie strane idee. Ma era un sorriso in cui c'era una traccia di reminiscenza. In seguito appresi che le mie osservazioni corrispondevano ad alcuni particolari riferiti nei racconti soprannaturali dei semplici. Inoltre, si parlava di fumo che, uscendo dal camino, prendeva la forma di lupo e delle strane forme assunte da certe radici, quando riuscivano a insinuarsi attraverso le pietre sconnesse delle fondamenta, all'interno della cantina. Capitolo 2. Solo quando divenni adulto, mio zio mi permise di leggere gli appunti e le informazioni che aveva raccolto sulla casa sfuggita. Il dottor Whipple era un buon medico conservatore della vecchia scuola e, nonostante il suo interesse per la storia di quella particolare abitazione, non intendeva incoraggiare i pensieri di un giovane verso l'insolito. Il suo punto di vista, che si riduceva a considerare la casa sfuggita come un edificio costruito in un luogo poco salubre, non aveva nulla a che fare con il soprannaturale. Ma egli temeva che il fascino grottesco delle leggende, lo stesso che aveva acceso il suo interesse, in un ragazzo avrebbe scatenato inevitabilmente una ridda di assurde associazioni mentali. Il dottore era scapolo. Un gentiluomo vecchia maniera, con i capelli bianchi e le guance ben rasate. Noto conoscitore di storia locale, che più volte aveva spezzato una lancia in favore di controversi custodi della tradizione, come Sidney S. Ryder e Thomas W. Bicknell. Viveva con un domestico in una casa georgiana col batacchio sulla porta e gradini affiancati da una ringhiera di ferro che pareva reggersi in precario equilibrio sull'erta di Northcourt Street, fra il vecchio tribunale di mattoni e la casa coloniale, dove suo nonno, un cugino del celebre capitano Whipple, colui che aveva incendiato lo schooner di sua maestà, il Gaspee, nel 1772, aveva votato nella seduta del 4 maggio 1776 in favore dell'indipendenza della colonia del Rhode Island. Nell'umida biblioteca dove studiava, un ambiente dal soffitto basso e i pannelli bianchi leggermente ammuffiti, le finestre dai vetri piccoli color vino e la parte superiore del camino pesantemente lavorata, erano esposti i ricordi e le testimonianze dell'antica famiglia a cui apparteneva, fra cui numerose e sgradevoli allusioni alla casa sfuggita in Benefit Street. La sfortunata abitazione non era molto lontana, perché Benefit passava diagonalmente sopra il vecchio tribunale, lungo la ripida collina che fu il centro dei primi insediamenti. Quando finalmente le mie insistenze e il passare degli anni persuasero mio zio a consentirmi di leggere le informazioni che aveva raccolto, mi trovai di fronte a un resoconto singolare. per lunga e tediosa che fosse, con una quantità di particolari genealogici e statistici, la cronaca adombrava un filo ininterrotto d'orrore e di malvagità costante, preternaturale, che mi impressionarono più di quanto avessero impressionato il buon dottore. Avvenimenti separati formavano un quadro unico e misterioso. Particolari che sembravano irrilevanti suggerivano orribili possibilità. Nacque in me una nuova e bruciante curiosità, a paragone della quale quella che provavo da ragazzo era infantile e poco sviluppata. La prima rivelazione ci spinse a intraprendere un'ampia ricerca, a cui seguì la terrificante esplorazione che si sarebbe rivelata disastrosa non solo per me, ma anche per il mio parente. In ultima analisi, mio zio insistette per unirsi alle indagini che avevo incominciato da solo. E dopo una notte trascorsa in quella casa, non fece più ritorno. Sono stato privato dell'anima gentile, i cui lunghi anni furono riempiti solo di onore, virtù, buon gusto e cultura. In suo onore ho eretto una tomba di marmo nel cimitero di St. John, quello amato da Poe, in mezzo al bosco di salici giganti sulla collina. Lassù, tombe e lapidi stanno ammucchiate in pace, fra la mole bianca della chiesa e le case e i muriccioli di Benefit Street. La storia della casa sfuggita, che si apriva con una raffica di date, non rivelava nulla di sinistro, né per quanto riguarda il periodo della costruzione, né la famiglia che l'aveva fatta erigere. Pure, fin dal principio, era presente un che di calamitoso, che ben presto raggiungeva livelli considerevoli. Le note di mio zio, compilate con cura, cominciavano con la costruzione vera e propria, realizzata nel 1763, e seguivano l'argomento con una grande dovizia di particolari. I primi abitanti della casa erano stati William Harris e sua moglie Robbie Dexter, con i figli Elkanah, nato nel 1755, Abigail, nel 1757, William Jr., nel 1759, e Ruth, nel 1761. Harris era un prospero navigatore che commerciava con le Indie orientali e in particolare con la compagnia di Obadiah Brown e i suoi nipoti. Dopo la morte di Brown nel 1761, la nuova società di Nicholas Brown & Co. lo aveva nominato comandante del brigantino Prudence, stazza 120 tonnellate e costruito a Providence, permettendogli in questo modo di costruire la casa che aveva sognato fin dall'epoca del matrimonio. Il luogo scelto da Harris corrispondeva a un tratto della nuova e residenziale Back Street, che correva lungo il fianco della collina sull'affollata Cheapside. C'era tutto quello che si poteva desiderare, e la casa aveva reso giustizia al sito. Quanto di meglio si potesse ottenere con mezzi moderati. Il capitano si era affrettato a trasferirvisi prima della nascita del quinto figlio, ormai in arrivo. Quest'ultimo, un maschietto, era venuto alla luce in dicembre, già morto. E da allora, per un secolo e mezzo, nessun bambino sarebbe nato vivo nella casa sfuggita. Il successivo aprile i figli si ammalarono e Abigail e Ruth morirono prima della fine del mese. Il dottor Job Ives diagnosticò febbre infantile, anche se altri affermarono che si era trattato di semplice deperimento e debolezza. In ogni caso, sembrava un male contagioso, perché Anna Bowen, la domestica, ne morì in giugno. Eli Lideson, l'altro servitore, lamentava una costante debolezza e sarebbe tornato nella fattoria di suo padre a Rehoboth se non fosse stato per l'improvviso amore nei confronti di Mehitabel Pierce, la donna assunta per sostituire Anna. Eli morì l'anno successivo. Un anno veramente infausto, se si tiene conto che portò nella tomba lo stesso William Harris, indebolito dal clima della Martinica, dove il suo lavoro lo aveva costretto a passare lunghi periodi nel decennio precedente. La vedova, Robbie Harris, non si riprese dalla perdita del marito e la scomparsa del primogenito Elkanah, 2 anni dopo, diede il colpo finale alla sua ragione. Nel 1768 fu vittima di una leggera forma di follia e venne confinata nella parte superiore della casa. La sorella maggiore, certa Mercy Dexter, nubile, venne a prendersi cura della famiglia. Costei era una donna semplice, robusta e forte, ma dopo aver messo piede nella casa, la sua salute peggiorò visibilmente. Era molto attaccata alla povera sorella e nutriva un affetto speciale per il nipote William, l'unico sopravvissuto. Questi, che da bambino era stato robusto e sano, si era trasformato in un ragazzo magro e malaticcio. Nello stesso anno morì la cameriera Mehitabel e la sua collega, Preserved Smith, si licenziò senza addurre spiegazioni ragionevoli. Tutto ciò che si ricavò da lei furono racconti fantastici e una lagnanza sull'odore della casa. Per un certo tempo, Mercy non riuscì a trovare altro personale. Nell'arco di 5 anni erano morte in casa 7 persone e c'era stato un caso di follia. E la cosa aveva innescato le chiacchiere del popolino, che in seguito avrebbero preso una piega così bizzarra. Alla lunga, tuttavia, la signora Dexter riuscì a trovare nuovi servitori fuori città. Anne White, una domestica scontrosa che veniva da quella parte di North Kingstown che oggi forma il comune di Exeter, e un capace uomo di Boston che rispondeva al nome di Zenas Lowe. Fu Anne White che per prima diede forma definitiva alle chiacchiere sinistre del popolino. Mercy avrebbe dovuto astenersi dall'assumere una donna della regione di Noon's Neck Hill, perché quel remoto angolo di foresta era allora, come adesso, il covo delle peggiori superstizioni. Non più tardi del 1892, la comunità di Exeter ha provveduto all'esumazione di un cadavere per bruciarne il cuore ritualmente, e tutto per evitare che continuassero certe pretese visite nocive alla salute e alla quiete pubblica. Ci si può immaginare le idee della stessa regione nel 1768. La lingua di Anne era perniciosa e dopo 5 mesi Mercy la licenziò, sostituendola con una fedele e amabile donna che veniva da Newport, Maria Robbins. Nel frattempo, la povera Robbie Harris, semifolle, cominciò a parlare di orrendi sogni e fantasticherie. A volte le sue urla diventavano insopportabili e per lunghi periodi gridava cose talmente atroci che il figlio dovette trasferirsi dal cugino Peleg Harris in Presbyterian Lane, vicino al nuovo edificio dell'università. In seguito a questo provvedimento, il ragazzo sembrò migliorare. E se Mercy fosse stata lungimirante quanto era benevola, lo avrebbe lasciato lì per sempre. La tradizione sembra reticente sul contenuto degli sfoghi della signora Harris. O meglio, presenta resoconti così stravaganti che si annullano a vicenda nella loro assurdità. Certo, è pazzesco sentire che una donna alla quale erano stati insegnati appena i rudimenti del francese a volte urlasse per ore in una forma particolarmente volgare e idiomatica di quella lingua, o che la stessa persona, sola e sorvegliata, lamentasse istericamente che qualcosa la fissava e la mordeva ripetutamente. Nel 1772 il domestico Zenas morì, e quando la signora Harris venne a saperlo, scoppiò a ridere con un piacere che non le si addiceva assolutamente. L'anno seguente morì ella stessa e fu sepolta nel North Burial Ground, vicino a suo marito. Allo scoppio delle ostilità con la Gran Bretagna nel 1775, William Harris, nonostante avesse appena 16 anni e fosse di costituzione macilenta, riuscì ad arruolarsi nell'armata d'osservazione sotto il generale Greene e da quel momento migliorò notevolmente sia in salute sia in prestigio. Nel 1780, in qualità di capitano del contingente del Rhode Island nel New Jersey, sotto il colonnello Angel, conobbe e sposò Phoebe Hatfield di Elizabethtown, che portò a Providence dopo il suo onorevole congedo l'anno seguente. Il ritorno del giovane soldato non fu tutto rose e fiori. La casa, è vero, era ancora in buone condizioni e la strada era stata allargata e ribattezzata Benefit Street. Ma la forte e robusta Mercy Dexter aveva subito uno spaventoso declino, sicché era ridotta a una figura curva e patetica dalla voce rauca e dallo straordinario pallore. Le stesse caratteristiche mostrate dall'unica cameriera rimasta, Maria. Nell'autunno del 1782, Phoebe Harris partorì una bambina nata morta. E il 15 maggio seguente Mercy Dexter dipartì da una vita che era stata austera, utile e virtuosa. William Harris, finalmente convinto del carattere nocivo della casa, prese la decisione di abbandonarla e chiuderla per sempre. Trovato un alloggio temporaneo per sé e per la moglie nel Golden Bull Inn, che aveva appena aperto, avviò i lavori di una casa migliore in Westminster Street, nella parte della città che andava sviluppandosi oltre il Great Bridge. Lì, nel 1785, nacque suo figlio Duty, e lì la famiglia abitò finché le esigenze del commercio li riportarono sull'altra sponda del fiume e sulla collina dove sorgeva Angel Street, nel nuovo quartiere residenziale dell'East Side. Nella stessa zona, ma nel 1876, il defunto Archer Harris avrebbe costruito una sontuosa quanto volgare abitazione col tetto in stile francese. William e Phoebe morirono entrambi nell'epidemia di febbre gialla del 1797, ma Duty fu affidato al cugino Rathbone Harris, figlio di Peleg. Rathbone era un uomo pratico e affittò la casa di Benefit Street contro le volontà di William, che avrebbe voluto mantenerla deserta. Per Rathbone era un obbligo verso il giovane pupillo sfruttarne al massimo i possedimenti. E le morti e malattie che provocarono tanti cambiamenti di inquilini non lo riguardavano. Nel frattempo, la casa veniva guardata dalla gente con sempre maggior avversione. È probabile che Rathbone Harris provò solo un senso di frustrazione quando, nel 1804, il consiglio comunale gli ordinò di bruciare presso la casa zolfo, catrame e canfora e di farla impregnare dei relativi fumi. Ben 4 persone, infatti, vi erano morte in modo da sollevare chiacchiere, anche se, con tutta probabilità, si trattava degli ultimi strascichi dell'epidemia di febbre. La gente diceva che la casa odorasse letteralmente di malattia. Duty non si mostrò attaccato alla sua proprietà, ma diventò un soldato e servì con onore sulla Vigilant sotto il comandante Calhoun nella guerra del 1812. Ne tornò illeso, si sposò nel 1814 e diventò padre nella memorabile notte del 23 settembre 1815. Quando un fortunale sollevò le onde della baia su mezza città e spinse un naviglio fino a Westminster Street, tanto che i suoi alberi sfiorarono le finestre degli Harris. Sembrò la simbolica affermazione che il nuovo nato, Welcome, era figlio di un marinaio. Wellcome non sopravvisse a suo padre, ma perì gloriosamente a Fredericksburg nel 1862. Per lui e per suo figlio Archer, la casa sfuggita non era altro che una spina nel fianco, un posto che nessuno era disposto ad affittare. Forse era colpa dell'umidità e dell'odore malsano di vecchiezza. Dopo una serie di morti, verificatesi nel 1861, la casa non fu più abitata, anche se l'eccitazione della guerra relegò nell'ombra quell'ultimo episodio. Finché non gli parlai delle mie esperienze, Carrington Harris, ultimo discendente in linea maschile, sapeva solo che la sua proprietà era un pittoresco centro di leggende. Aveva pensato di demolirla e costruire nello stesso luogo un condominio, ma dopo quello che gli raccontai, decise di abbandonare il progetto. La lasciò dov'era, fece installare tubature moderne e l'affittò. Non ha mai avuto difficoltà a trovare inquilini, perché l'orrore, ormai, è scomparso. Capitolo 3. Si può immaginare come gli annali degli Harris mi avessero impressionato. Nelle loro cronache correva la minaccia di qualcosa di malvagio che la natura non poteva spiegare, una calamità legata alla casa, piuttosto che alla famiglia. Questa impressione era confermata dalle notizie miscellanee che mio zio aveva raccolto con minore sistematicità. Leggende ricavate dalle dicerie dei servitori, ritagli di giornale, copie dei certificati di morte ottenuti da colleghi medici e materiale del genere. Non posso dare qui il frutto integrale delle sue ricerche, perché lo zio era un instancabile appassionato del passato e in particolare di ciò che riguardava la casa sfuggita, ma posso riferire i punti salienti e ricorrenti, confermati da resoconti di vana provenienza. Per esempio, le dicerie dei domestici erano unanimi per quel che riguardava la cantina. Era il centro dell'influenza malefica, con i suoi funghi e i cattivi odori. Altri servitori, in particolare Anne White, si rifiutavano di usare la cucina del seminterrato e c'erano almeno 3 distinte tradizioni per quel che riguardava le forme umane o quasi umane assunte dalle radici degli alberi e dalla macchia biancastra nelle vicinanze. Questi resoconti mi interessavano particolarmente, perché da ragazzo ne avevo fatto esperienza diretta. Ma avevo l'impressione che il senso autentico dell'enigma fosse oscurato, in tutti i casi, da inevitabili aggiunte tratte dalle volgari credenze sui fantasmi. Anne White, la superstiziosa di Exeter, aveva diffuso il racconto più stravagante e più particolareggiato. Sosteneva, infatti, che sotto la casa fosse sepolto un vampiro, uno di quei morti che mantengono intatta la forma corporea e si nutrono del sangue e dell'alito dei vivi, e le cui orrende schiere si diffondono sulla terra durante la notte per cacciare. Per distruggere un vampiro, raccontavano le nonne, si doveva esumarlo e bruciarne il cuore, o almeno trafiggerlo con un paletto acuminato. E la caparbia insistenza di Anne perché venisse effettuata una ricerca in cantina era stata uno dei motivi che avevano condotto al suo licenziamento. I racconti che narrava avevano comunque un vasto uditorio ed erano accettati con facilità, perché la casa sorgeva su un terreno che una volta era stato usato per le sepolture. A me interessava meno questa circostanza dell'altra per cui le storie di Anne concordavano con i particolari di testimonianze molto diverse. Per esempio, l'affermazione della precedente cameriera, Preserved Smith, che non aveva mai sentito parlare di Anne, secondo cui qualcosa le toglieva il fiato di notte. O i certificati di morte delle vittime di febbre del 1804, preparati dal dottor Chad Hopkins, nei quali era detto che i 4 defunti mostravano un'incomprensibile anemia. o ancora gli oscuri vaneggiamenti della povera Robbie Harris, in cui lamentava i morsi di un'entità solo in parte visibile, dallo sguardo vitreo e i denti aguzzi. Per quanto libero da superstizioni infondate, rimasi scosso da questo insieme di particolari e il mio stupore aumentò quando lessi due ritagli di giornale molto lontani nel tempo e relativi alle morti nella casa sfuggita. Uno, del Providence Gazette and Country Journal del 12 aprile 1815 e l'altro del Daily Transcript and Chronicle del 27 ottobre 1845. Entrambi riferivano un particolare spaventoso, il cui ripetersi aveva dello straordinario. A quanto pare, in entrambi i casi, il moribondo, nel 1815 una dolce e anziana signora di nome Stafford e nel 1845 un insegnante di mezza età che si chiamava Eleazar Durfee, avevano subito un'orribile metamorfosi. Lo sguardo si era fatto vitreo e avevano tentato di mordere al collo il medico presente. Ancora più straordinario il caso finale, quello dopo il quale nessuno aveva più voluto affittare la casa. Una serie di morti per anemia, precedute da follia progressiva, in cui il paziente aveva attentato alla vita dei suoi parenti, incidendone abilmente il collo o i polsi. Tutto questo avveniva nel 1860 o 1861, quando mio zio aveva appena cominciato la pratica medica e prima di partire per il fronte ne aveva saputo abbastanza dai colleghi più anziani. La cosa veramente inesplicabile era il modo in cui le vittime, persone ignoranti, perché ormai la casa era evitata dalla maggior parte della gente e non poteva essere affittata ad altri, prendevano a bestemmiare in francese, lingua che certo non avevano studiato. Veniva in mente la povera Robbie Harris di quasi un secolo prima. E mio zio ne fu tanto colpito che cominciò a raccogliere dati sul passato della casa. Nel frattempo, appena tornato dalla guerra, aveva ascoltato i resoconti di prima mano dei dottori Chase e Whitmarsh. Mi resi conto che mio zio aveva riflettuto a lungo sul problema e che era lieto del mio interesse. L'interesse, cioè, di una persona affezionata e senza pregiudizi, che gli permetteva di discutere un argomento del quale altri avrebbero riso. La sua fantasia non si era spinta lontano quanto la mia, ma sentiva che il luogo era ricco di potenzialità speculative e degno di ispirare chiunque fosse interessato al macabro e al grottesco. Da parte mia ero disposto ad affrontare la questione con la massima serietà e cominciai non solo a studiare le prove, ma ad accumularne altre secondo le mie possibilità. Parlai molte volte col vecchio Archer Harris, proprietario della casa, prima della sua scomparsa nel 1916. Da lui e dalla sorella nubile che gli sopravvisse, Alice, ottenni conferma di tutte le informazioni che mio zio aveva raccolto sulla famiglia. Quando chiesi loro quale legame potesse esistere fra la Francia e la casa sfuggita, confessarono tuttavia di saperne poco quanto me. Archer ne era completamente all'oscuro e tutto quello che la signorina Harris fu in grado di dire era che suo nonno, Duty Harris, aveva sentito una vecchia diceria che forse avrebbe potuto gettare un po' di luce sulla questione. Il vecchio marinaio, che era sopravvissuto 2 anni alla morte in battaglia di suo figlio Welcome, non aveva esperienza diretta della leggenda, ma ricordava che la sua vecchia balia, Maria Robbins, sapeva qualcosa che avrebbe attribuito un arcano significato ai deliri in francese di Robbie Harris. Li aveva uditi molte volte negli ultimi giorni della sventurata. Maria era stata nella casa sfuggita dal 1769 fino alla partenza della famiglia nel 1783 e aveva assistito alla morte di Mercy Dexter. Una volta aveva riferito al piccolo Duty una strana circostanza che si era verificata poco prima che Mercy spirasse. Ma il ragazzo aveva dimenticato tutto, a parte il fatto che si trattava di una cosa bizzarra. La nipote ricordava ancora meno, perché sia lei sia suo fratello non erano interessati alla casa quanto lo era invece Carrington, figlio di Archer e attuale proprietario, con cui ebbe modo di parlare dopo l'esperienza che feci fra le sue mura. Dopo aver ottenuto tutte le informazioni che potevo dalla famiglia Harris, rivolsi la mia attenzione alle vecchie cronache della città, con uno zelo superiore a quello di mio zio. Ed è quanto dire. Quella che desideravo era una storia completa della località dall'epoca dei primi insediamenti, 1636. O anche prima, ammesso che si potessero ottenere informazioni dalle leggende degli indiani di Narragansett. Tanto per cominciare, scoprii che il sito aveva fatto parte di un lotto lungo e stretto assegnato in origine a John Throckmorton e che era uno dei molti lotti simili, a striscia, che cominciavano in Town Street lungo il fiume e correvano su per la collina lungo un asse che corrispondeva grosso modo all'attuale Hope Street. Il lotto di Throckmorton era stato diviso in seguito in molti altri e io cercai di scoprire tutto quello che potevo sul segmento attraverso cui sarebbe passata la futura Back Street, poi Benefit Street. Secondo certe voci, il punto che mi interessava era stato il cimitero dei Throckmorton, ma esaminando più attentamente i documenti, scoprii che le tombe erano state trasferite nel North Burial Ground, sulla Pawtucket West Road, in data molto antica. Fu a quel punto che, per puro caso, mi imbattei in un documento che risvegliò tutto il mio interesse. Dico per caso perché non si trovava nei carteggi principali e avrebbe potuto facilmente passare inosservato, ma era la chiave di alcuni dei punti più bizzarri della vicenda. Si trattava della cessione temporanea, stipulata nel 1697, di un piccolo tratto di terreno a un certo Etienne Roulet e a sua moglie. Finalmente appariva l'elemento francese, e con esso qualcosa di più orribile che il nome risvegliò nella mia memoria, satura di letture fantastiche ed eterogenee. Studiai con fervore la planimetria del posto prima che fosse attraversato da Back Street e che la strada venisse raddrizzata fra il 1747 e il 1758. Scoprii quello che mi ero in parte aspettato, e cioè che dove oggi sorgeva la casa sfuggita, i Roulet avevano stabilito il loro cimitero, dietro un cottage a un piano con soffitta, e che non esistevano documenti relativi a uno spostamento delle tombe. L'atto terminava con una gran confusione e fui costretto a saccheggiare sia la Rhode Island Historical Society sia la Shepley Library prima di trovare la porta che il nome di Etienne Roulet fosse in grado di aprire. Finalmente scoprii qualcosa di così sinistro e fantastico che decisi di esaminare immediatamente i sotterranei della casa sfuggita, animato da nuovo zelo ed eccitazione. A quanto pareva, i Roulet erano arrivati nel 1696 da East Greenwich, giù per la riva occidentale della baia di Narragansett. Erano ugonotti di Code e avevano incontrato molta opposizione prima che il Consiglio di Providence permettesse loro di stabilirsi in città. Perseguitati da una certa impopolarità anche a East Greenwich, dove si erano trasferiti nel 1686 dopo la revoca dell'editto di Nantes, erano diventati oggetto di pregiudizi ben più che nazionalistici o razziali e che andavano al di là delle dispute per le assegnazioni terriere fra francesi e inglesi, in quell'epoca all'ordine del giorno e contro cui nemmeno il governatore Andros poteva fare nulla. Alla fine, tuttavia, l'ardente protestantesimo della coppia, troppo ardente secondo alcuni, e il loro evidente avvilimento quando si erano visti respinti dal villaggio e costretti a discendere la baia, avevano commosso i padri della città di Providence ed era stato loro garantito un rifugio sicuro. Così, l'oscuro Étienne Roulet, meno bravo a coltivare i campi che a leggere strani libri e a disegnare bizzarri diagrammi, era diventato un impiegato del porto, nel magazzino che fronteggiava il molo di Pardon Tillinghast all'estremità meridionale di Town Street. Molto più tardi, forse 40 anni dopo la morte del vecchio Roulet, c'era stato un violento incidente di qualche genere e nessuno aveva più sentito parlare della famiglia. A quanto pareva, per più di un secolo i Roulet erano stati ricordati vividamente e in relazione a strani incidenti di cui nel tranquillo porto del New England si era parlato parecchio. Il figlio di Étienne, Paul, era un tipo poco raccomandabile e stava forse all'origine dell'episodio che aveva cancellato la famiglia, perché aveva una condotta veramente imprevedibile. La gente si domandava molte cose sul suo conto. E benché a Providence non attecchisse il panico della stregoneria caratteristico dei vicini centri puritani, le vecchie della città dicevano liberamente che questo Paul non pregava né al momento buono né all'indirizzo giusto. E ciò, senza dubbio, aveva dato origine alla leggenda conosciuta della vecchia Maria Robbins. Quale relazione avesse tutto questo con i deliri in francese di Robbie Harris e di altri abitanti della casa sfuggita? Solo l'immaginazione e future scoperte avrebbero potuto stabilire. Mi chiesi quanti di coloro che conoscevano le leggende della casa sapessero del nuovo e sinistro tassello che le mie letture mi avevano permesso di scoprire, in particolare per ciò che riguardava l'uomo conosciuto come Jacques Roulet di Caude, la cui storia costituiva uno dei punti più oscuri negli annali dell'orrore. Nel 1598, costui era stato condannato per stregoneria, ma salvato dal rogo per intervento del Parlamento di Parigi e rinchiuso in manicomio. Lo avevano trovato in un bosco, coperto di sangue e brandelli di carne, poco dopo l'uccisione e lo smembramento di un ragazzo da parte di una coppia di lupi. Una delle due belve era stata vista allontanarsi, indisturbata. Era un tipico racconto da comari, con un significato più che sinistro se si considera il tutto. Ma decisi che i pettegolezzi di Providence non ne avevano mai tratto alimento. Se la gente avesse saputo dell'episodio, la coincidenza dei nomi avrebbe indotto la comunità a intraprendere qualche drastica azione. Tuttavia, non poteva darsi che una debole eco fosse arrivata alle orecchie dei miei concittadini e che avesse scatenato l'episodio di violenza culminato nella scomparsa dei Roulet. Visitai la casa maledetta più volte, studiando la vegetazione malata del giardino, esaminando le pareti e sondando ogni centimetro del pavimento in cantina. Finalmente, col permesso di Carrington Harris, feci fare una chiave per aprire la porta che dal seminterrato immetteva in Benefit Street. Preferivo avere un accesso più diretto al mondo esterno che non le scale umide, l'ingresso a pian terreno e la porta georgiana. Nel sotterraneo, dove si addensavano i sospetti più orribili, indagai per lunghi pomeriggi mentre il sole filtrava dalle finestre coperte di ragnatele che davano sulla strada. Sapere che una porta aperta mi separava di pochi passi dal mondo mi dava un senso di sicurezza. Niente di nuovo premiò i miei sforzi. Dappertutto era solo umidità, un vago sentore di odori disgustosi e di macchie biancastre sul pavimento. Immagino che molti passanti debbano avermi guardato con curiosità dai vetri rotti delle finestre. Infine, su suggerimento di mio zio, decisi di andare nella casa sfuggita anche dopo il tramonto. E una sera di temporale, intorno alla mezzanotte, proiettai il fascio della torcia elettrica sul pavimento ammuffito e sulle forme grottesche dei funghi fosforescenti. Quella sera la casa mi aveva stranamente depresso. E in un certo senso ero preparato a ciò che vidi, o credetti di vedere, fra i depositi biancastri. Il disegno di una sagoma umana rannicchiata che tante volte mi aveva colpito da ragazzo. La chiarezza della macchia era straordinaria, senza precedenti. E mentre la fissavo, mi parve di vedere la sottile esalazione giallastra che tanti anni prima, in un pomeriggio di pioggia, mi aveva fatto trasalire. Sprigionato dalla chiazza antropomorfa formata dall'umidità vicino al camino, era un vapore sottile, malsano, quasi luminoso, che tremava nell'aria umida e pareva assumere una forma vaga, ma non per questo meno inquietante, e che poi degenerava in una sorta di nebuloso decadimento per scomparire in una scia di fetore su per il camino. Era veramente orribile, e per me che conoscevo il posto lo era anche di più. Resistei alla tentazione di fuggire e lo vidi dileguarsi, ma mentre guardavo ebbi l'impressione che esso a sua volta mi guardasse avidamente, con occhi più immaginari che visibili. Quando riferii l'episodio a mio zio, ne fu molto colpito e dopo un'ora di riflessione arrivò a una drastica decisione. Valutando l'importanza della questione e il significato del nostro lavoro, decise che entrambi studiassimo e, se possibile, distruggessimo l'orrore che si annidiava nella casa. A questo scopo avremmo vegliato insieme, per una o più notti, nella cantina ammorbata dall'umidità e dai funghi. Capitolo 4. Il 25 giugno 1919, dopo una doverosa comunicazione a Carrington Harris, in cui, tuttavia, non specificavamo ciò che pensavamo di trovare, mio zio e io portammo nella casa sfuggita due sedie da campo, un letto pieghevole e certe pesanti apparecchiature scientifiche. Durante il giorno sistemammo questo materiale in cantina, schermando le finestre con la carta e decidendo di tornare quella sera per la nostra prima veglia. Avevamo chiuso a chiave la porta che dal seminterrato portava alla strada ed eravamo disposti a lasciare le nostre attrezzature, che avevamo ottenuto in via riservata e a caro prezzo, per quanti giorni fosse necessario. Avevamo intenzione di rimanere svegli fino a tardi e poi di continuare con turni di 2 ore, il primo dei quali spettava a me. Il compagno, nel frattempo, avrebbe potuto riposare sul lettino. Mio zio prese con naturalezza le redini della situazione, procurando le apparecchiature che ci servivano nei laboratori della Brown University e presso l'arsenale di Cranston Street. Dopodiché assunse istintivamente il comando dell'impresa. È la miglior testimonianza della vitalità e della resistenza di un uomo che aveva ormai 81 anni. Elihu Whipple aveva vissuto nel rispetto delle regole igieniche che predicava come medico. E se non fosse per quello che accadde nella casa sfuggita, sarebbe ancora oggi fra noi e pieno di vigore. Solo due persone sospettano la verità su quel che avvenne. Carrington Harris e io. A Harris dovevo dire qualcosa perché era il proprietario della casa ed era giusto che sapesse da cosa l'avevamo liberata. Inoltre aveva parlato con noi prima che ci dedicassimo alla nostra impresa e io avevo la sensazione che dopo la scomparsa dello zio Whipple il signor Harris mi avrebbe capito e aiutato nel fornire le necessarie spiegazioni pubbliche. Quando gli dissi ciò che era successo, impallidì, ma accettò di spalleggiarmi e stabilì che finalmente la casa poteva essere affittata senza preoccupazioni. Affermare che non eravamo nervosi in quella piovosa notte di veglia sarebbe una ridicola e grossolana esagerazione. Come ho detto, non avevamo superstizioni infantili, ma lo studio della scienza e le nostre riflessioni ci avevano insegnato che l'universo tridimensionale a noi noto costituisce soltanto una piccolissima frazione del cosmo della materia ed energia. In questo caso, le prove fornite da numerose e accertabili fonti dimostravano l'esistenza di forze e poteri che da un punto di vista umano si potevano definire senz'altro malvagie. Dire che credessimo alla lettera in vampiri e lupi mannari sarebbe, d'altra parte, un'affermazione inesatta e grossolana. L'approssimazione migliore è questa. Non avevamo intenzione di negare la possibilità di straordinarie e ignote alterazioni nella materia e nell'energia vitale, cioè di fenomeni infrequenti nello spazio tridimensionale a causa delle sue stesse limitazioni, ma possibili in sfere d'esistenza abbastanza vicine alla nostra da dare luogo a occasionali manifestazioni che noi, per mancanza di un punto di osservazione vantaggioso, forse non capiremo mai. In breve, mio zio e io sapevamo che una serie di fatti incontrovertibili indicava la presenza nella casa sfuggita di un'influenza costante nel tempo e risaliva all'uno o all'altro dei due sospetti coloni francesi di due secoli prima. Influenza ancora attiva in virtù di rare e ignote leggi del movimento atomico ed elettronico. Che la famiglia Roulet avesse posseduto una normale familiarità con sfere d'esistenza ulteriori, mondi oscuri di cui la gente normale aveva solo terrore e repulsione, sembrava provato dalla storia. Ma questo non significava forse che le violenze del 1730 avevano messo in moto nel cervello di uno o più di loro, in particolare del sinistro Paul Roulet, un meccanismo, un modello cinetico mostruoso che era sopravvissuto al linciaggio della folla e all'assassinio dei corpi fisici per continuare a funzionare nello spazio multidimensionale secondo le stesse direttrici di odio assoluto per la comunità? Non era assurdo immaginare un'evenienza del genere, alla luce della nuova scienza che postulava la teoria della relatività e dell'interazione atomica. Era possibile concepire un nucleo sconosciuto di materia o di energia, informe o dotato di forma, mantenuto in vita da impercettibili e lievissime sottrazioni della forza vitale altrui o anche di tessuti, fluidi e sostanze più concrete in cui fosse in grado di penetrare e con la cui struttura potesse, se necessario, fondersi. Un'entità del genere poteva essere attivamente ostile o essere indotta ad agire come agiva da ciechi motivi di sopravvivenza. Ma in ogni caso sul nostro piano di realtà sarebbe stata un'intrusa, un'anomalia mostruosa che andava estirpata. E questo era il dovere di ogni uomo che non fosse nemico della vita, del benessere e della sanità del mondo. Ciò che preoccupava lo zio Whipple e me era l'ignoranza dell'aspetto che la creatura avrebbe assunto. Nessuna persona sana di mente l'aveva mai vista e poche ne avevano percepito la vicinanza. Poteva trattarsi di pura energia, una forma eterea ed estranea al regno della materia, o forse di un essere almeno in parte materiale, di una sconosciuta ed equivoca massa di plasma in grado di passare a volontà da nebulose approssimazioni dello stato solido a quello liquido e gassoso, o a qualcosa di ancora diverso. La chiazza di forma antropomorfa sul pavimento, l'aspetto del vapore giallastro e la curva assunta dalle radici degli alberi in alcuni dei vecchi racconti sembravano indicare una parentela almeno remota con la figura umana. Ma quanto rappresentativa o permanente quella similarità potesse essere, nessuno poteva dirlo con certezza. Avevamo pensato di combatterla con due armi. Un grande tubo di Crookes, adattato a esigenze speciali, con potenti batterie di scorta e schermi riflettori, nel caso fosse suscettibile soltanto alle radiazioni. E due lanciafiamme militari, del tipo usato durante la guerra mondiale, nel caso fosse almeno in parte materiale e suscettibile ai mezzi di distruzione meccanici. Come i superstiziosi contadini di Exeter, eravamo pronti a bruciare il cuore della cosa. Se poi esisteva un cuore. Disponemmo le nostre armi in cantina, sistemandole in punti strategici rispetto al letto e alle sedie, ma anche al punto davanti al camino dove la muffa aveva preso strane forme. Tra parentesi, quando sistemammo i nostri macchinari la chiazza era appena visibile, e lo stesso vale per la sera in cui tornammo a fare la veglia. Per un attimo dubitai di aver visto la sagoma delineata con tanta precisione qualche tempo prima, ma poi ripensai alle leggende. La veglia cominciò alle 10 di sera e a un certo punto ci sembrò che non avrebbe avuto nessun esito. Dai lampioni esterni filtrava una debole luce e dai funghi che prosperavano in cantina una fosforescenza di cui avremmo fatto volentieri a meno. In quell'atmosfera vedevamo la pietra gocciolante delle pareti da cui era svanita ogni traccia di imbiancatura. Il pavimento di terra battuta, intriso di umidità e puzzolente, dove prosperavano solo i bruttissimi funghi. I resti marcescenti di quelli che erano stati sgabelli, sedie, tavoli e altri mobili informi. Le assi pesanti e le travature del pianterreno sopra di noi. La porta decrepita che conduceva a dispense e depositi sotto altre parti della casa. La scala di pietra in rovina con il corrimano di legno consunto e la bocca cavernosa del camino di mattoni anneriti, dove pochi frammenti arrugginiti suggerivano la presenza, in passato, di ganci, alari, spiedi, carrucole e il portello del forno olandese. Tutto questo e il nostro austero lettino, le sedie da campo e le ingombranti macchine di morte che avevamo portato. Come nelle mie precedenti esplorazioni, non avevamo chiuso a chiave la porta che dava sulla strada, e quindi avevamo pronta una via di scampo nel caso di manifestazioni a cui non fossimo in grado di far fronte. Pensavamo che la nostra prolungata permanenza notturna avrebbe attirato la presenza malevola e che, essendo preparati, avremmo potuto liquidarla con uno o l'altro dei mezzi che avevamo a disposizione non appena l'avessimo riconosciuta e osservata a sufficienza. Non avevamo la minima idea, invece, del tempo che sarebbe stato necessario per evocarla e combatterla. Riflettemmo che la nostra posizione era tutt'altro che sicura, perché nessuno sapeva di quanta forza disponesse la creatura. Ma ci sembrava che il gioco valesse la candela e non esitammo ad affrontare l'esperienza da soli. Sapevamo che la ricerca di un aiuto all'esterno ci avrebbe esposti al ridicolo e forse avrebbe compromesso il nostro scopo. Questa era la nostra situazione mentre parlavamo nel cuore della notte. Poi la tendenza di mio zio ad appisolarsi mi spinse a ricordargli che era tempo di concedersi le 2 ore di sonno. Rimasto solo nelle ore piccole, mi sentii pian piano gelare dalla paura. Ho detto solo perché questa è la situazione di chi si trova in compagnia di un dormiente. Anzi, si è più abbandonati di quanto ci si renda conto. Mio zio respirava pesantemente e le sue profonde aspirazioni e inspirazioni erano accompagnate dal rumore di pioggia all'esterno e all'interno da uno snervante sgocciolio d'acqua. La casa era insopportabilmente umida anche quando non pioveva e durante un temporale come quello sembrava trasformarsi in un pantano. Osservai le pietre sconnesse delle antiche mura alla luce dei funghi e ai deboli raggi dei lampioni che piovevano dalla strada. E improvvisamente, quando l'atmosfera inquietante del posto stava per sopraffarmi, aprii la porta che dava sulla strada e guardai nell'una e nell'altra direzione, riposando gli occhi alla vista di cose familiari e inalando qualche boccata di aria buona. Ma ancora non succedeva niente e avevo la sensazione che la mia veglia fosse del tutto inutile. Sbadigliai ripetutamente, perché la fatica stava avendo la meglio sull'apprensione. Poi l'agitarsi di mio zio nel sonno attrasse la mia attenzione. Si era girato e rigirato parecchie volte nell'ultima mezz'ora, ma ora respirava con notevole irregolarità e ogni tanto faceva un sospiro che sembrava piuttosto un rantolo strozzato. Puntai il raggio della torcia elettrica su di lui e vidi che aveva la testa rovesciata. Così mi precipitai accanto al lettino e accesi di nuovo la torcia per vedere se soffrisse. Quello che scoprii mi angosciò in modo sorprendente, perché in fondo si trattava di una piccola cosa. La colpa doveva essere del luogo in cui ci trovavamo e della nostra missione, dato che la circostanza in sé non aveva niente di spaventoso o innaturale. Ma l'espressione di mio zio, probabilmente turbata dagli strani sogni che la nostra situazione favoriva, era quella di un uomo agitato e non era per niente tipica di lui. Di solito zio Whipple aveva un aspetto di gentile e coltivata urbanità, mentre ora sembrava in preda a un conflitto di emozioni. Penso che fosse proprio la varietà dei sentimenti che provava a lasciarmi perplesso. Lo zio ansimava e si agitava sempre più turbato. Alla fine spalancò gli occhi e nel complesso non sembrava un solo uomo, ma molti, per cui dava una curiosa impressione di alienazione da sé. Improvvisamente cominciò a borbottare e a me non piacquero affatto la piega che prendeva la sua bocca e il luccichio dei denti mentre parlava. In un primo momento le parole furono indistinguibili, ma poi con un sobbalzo violento riconobbi la lingua in cui si esprimeva e provai un brivido di terrore assoluto. Finché non ricordai che lo zio era una persona di grande cultura e che aveva fatto lunghe traduzioni di articoli antropologici e storici dalla Revue des Deux Mondes. Il vecchio Elihu Whipple stava parlando in francese e le poche parole che capii sembravano collegate ai miti più oscuri di cui aveva letto nel celebre periodico parigino. D'un tratto la fronte gli si coprì di sudore e fece un balzo mezzo sveglio. L'impasto di francese si tramutò in un urlo in inglese e con una voce rauca gridò: «Il fiato! Il fiato!» Poi il risveglio fu completo e mentre l'espressione della faccia tornava allo stato normale, lo zio mi prese la mano e cominciò a raccontare un sogno il cui significato profondo potei solo intuire con terrore. Disse che gli era sembrato di passare attraverso una normale sequenza di sogni fino a che si era presentata una scena la cui stranezza era tale da non ricordargli nulla che avesse mai letto. Da una parte sembrava appartenere a questo mondo, dall'altra ne sfuggiva. Una geometrica confusione d'ombre che si combinavano in modo assolutamente poco familiare e preoccupante. Aveva la sensazione di vedere molte immagini contemporaneamente, le une sovrapposte alle altre, in modelli dove le basilari certezze del tempo e dello spazio sembravano dissolversi e mescolarsi nel modo più illogico. In questo vortice caleidoscopico di visioni fantasma si infiltravano ogni tanto delle istantanee, ammesso che si possa usare questo termine, di singolare chiarezza, ma di indefinibile eterogeneità. Una volta mio zio aveva avuto la sensazione di giacere in una buca aperta e scavata rozzamente, da cui una folla di facce irate lo guardavano con malanimo. Facce di gente che portava i boccoli e cappelli a tre punte. Poi gli era sembrato di trovarsi all'interno di una casa, a quanto pareva molto vecchia, ma i particolari fisici e persino i suoi frequentatori cambiavano continuamente. Non si poteva essere sicuri delle facce e della mobilia, né dell'ambiente in se stesso, perché porte e finestre si trovavano in uno stato di continua fluidità e mutavano come gli oggetti mobili. Era strano, diabolicamente strano, e quando affermò che alcune di quelle facce avevano i lineamenti degli Harris, mio zio abbassò la voce in una sorta di timore reverenziale, come se si aspettasse di non essere creduto. Nel frattempo continuava ad avere la sensazione di soffocamento, come se un misterioso occupante si fosse impadronito del suo corpo e cercasse di far sue le funzioni vitali che gli appartenevano. Tremai, perché si trattava di funzioni logorate da 81 anni di attività continua e che dovevano opporsi a forze sconosciute di cui anche l'organismo più giovane e forte avrebbe avuto giustamente paura. Un attimo dopo, tuttavia, mi dissi che i sogni sono solo sogni e che le visioni dello zio erano, alla peggio, il suo modo di reagire alle aspettative connesse alle nostre indagini, che da qualche tempo ci tenevano occupata la mente con l'esclusione di tutti gli altri pensieri. La conversazione contribuì a dissipare il mio senso di straniazione. A poco cedetti agli sbadigli e mi concessi anch'io un turno di riposo. Ora lo zio sembrava più che mai sveglio e fu lieto di affrontare il suo turno di guardia, anche se l'incubo lo aveva tirato giù dal letto molto prima del previsto. Mi addormentai velocemente e fui perseguitato a mia volta da sogni della più inquietante natura. Le mie visioni ispiravano un senso di cosmica e abissale solitudine, mentre la prigione in cui ero confinato lasciava filtrare un senso di schiacciante ostilità. Mi pareva di essere legato e in catene, e da lontano mi giungevano le urla di una moltitudine assetata del mio sangue. Apparve la faccia di mio zio, ma a differenza che nelle ore di veglia, non suscitava in me alcun sentimento piacevole. Anzi, ricordo di aver tentato di urlare e di essermi dibattuto per liberarmi, e nel complesso non fu affatto un sonno gradevole. L'urlo che squarciò i miei sogni e che mi scaraventò di colpo nella cruda realtà fu quasi il benvenuto. Ora che avevo riaperto gli occhi, vedevo ogni oggetto e ogni cosa con più chiarezza che mai. Sa che mai. Capitolo 5. Mi ero addormentato con la schiena rivolta alla sedia dello zio, sicché le prime cose che vidi furono la porta che dava sulla strada, la finestra settentrionale e il muro, pavimento e soffitto dell'angolo nord. Il tutto fotografato dal mio cervello in una luce più brillante di quella diffusa dai funghi o dai lampioni stradali. Non era una luce forte, nemmeno cruda, e certo non avrebbe permesso di leggere un libro, ma proiettava sul pavimento la mia ombra e quella del lettino e aveva una qualità giallastra e penetrante che faceva pensare a qualcosa di più potente della pura e semplice luminosità. Me ne resi conto con assoluta chiarezza, nonostante il fatto che due dei miei sensi avessero subito un attacco simultaneo. Alle mie orecchie risuonava l'eco dell'urlo agghiacciante e le mie narici si erano riempite di un puzzo disgustoso che riempiva l'ambiente. La mia mente, allerta come i sensi, capì che la situazione era peggiorata in modo straordinario. Quasi senza rendermene conto balzai in piedi e mi preparai a usare uno degli strumenti di distruzione che avevamo sistemato sulla chiazza ammuffita davanti al camino. Mi girai, temendo quello che avrei visto. L'urlo era quello di mio zio e non sapevo da quale minaccia avrei dovuto difendere lui e me. Ma ciò che vidi era peggio di quello che avevo immaginato. Ci sono orrori supremi e io mi trovavo di fronte a uno di quei grumi di incubo assoluto che il cosmo riserva a una minoranza di infelici e dannati. Dalla terra, disseminata di funghi, filtrava un vapore cadaverico, un colore giallastro e malato che si innalzava in complesse volute fino al soffitto e che assumeva sembianze in parte umane e in parte mostruose, attraverso le quali vedevo perfettamente la cappa e il camino più oltre. Era tutto occhi, crudele e beffardo come una belva, e la testa rugosa che ricordava quella di un insetto si dissolveva in cima a un sottile filamento di nebbia che, dopo essersi ripiegato orrendamente, scomparve su per il camino. Ho detto che vidi quell'essere, ma è solo con uno sforzo di memoria che posso ricostruire il suo esecrabile tentativo di prender forma. Al momento non fu per me che una nube fosforescente, una cosa che filtrava dalla disgustosa putredine dei funghi, avviluppando e poi lasciando con orrenda plasticità l'essere su cui era concentrata la mia attenzione. Alludo a mio zio, il venerabile Elihu Whipple, che rideva sguaiatamente e singhiozzava scuro in volto, con i lineamenti che sembravano disfarsi. E a un tratto allungò le mani adunche per attirarmi nell'alone di violenza suscitato dall'orrore. Solo l'attaccamento a una precisa routine di gesti e di pensieri mi impedì di impazzire, perché a lungo mi ero preparato al momento cruciale e quel banale addestramento mi salvò. Ormai sapevo che l'essere malefico non possedeva una vera e propria sostanza materiale e quindi non poteva essere aggredito dai mezzi chimici. Ignorai il lanciafiamme alla mia sinistra e diedi corrente all'apparecchio di Crookes, dirigendo un fascio delle più potenti radiazioni che l'uomo sia in grado di concentrare verso la scena della blasfemia. Ci fu un lampo azzurro e uno sfrigolio orribile. Poi la nebbia giallastra si attenuò davanti ai miei occhi. Mi resi conto, tuttavia, che il bagliore era impallidito solo per contrasto e che le onde emesse dal tubo non avevano alcun effetto. Nel mezzo di quello spettacolo infernale avvenne qualcosa di così orrendo che mi spinse a fuggire, urlando e senza sapere dove mettevo i piedi, verso la porta che dava sulla strada, incurante delle forze distruttive che avrei potuto scatenare sul mondo o dei pensieri e giudizi degli uomini nei miei confronti. Nella vaga mescolanza di alone giallo e azzurro, la figura di mio zio aveva cominciato a liquefarsi in un modo che sfida ogni possibilità di descrizione. Tuttavia, nello scomparire, il volto rifletté una serie di cambiamenti d'identità degna della più assurda follia. Era contemporaneamente un demone e una moltitudine, un cimitero popolato di cadaveri e un corteo trionfale. Illuminato dai raggi misti e incerti, il volto molle assunse 10, 20, 100 aspetti diversi. E quando affondò nella pozza del corpo che si scioglieva per terra come cera, esprimeva in un ghigno, sorta di beffarda caricatura, le sembianze di gruppi eterogenei, ma non del tutto estranei. Riconobbi i tratti della famiglia Harris, maschi e femmine, adulti e bambini, e i lineamenti rozzi o raffinati di persone di varie età, familiari o sconosciute. Per un secondo mi sembrò di riconoscere la copia degradata del volto della povera e pazza Robbie Harris, che avevo visto in una miniatura al museo della scuola di disegno. Un attimo dopo riconobbi il volto ossuto di Mercy Dexter, che avevo visto in un ritratto a casa di Carrington Harris, ed era spaventoso al di là di ogni descrizione. Verso la fine quando un curioso miscuglio di volti servili e di bambini prese forma in mezzo alla macchia di grasso verdastro che si andava allargando sul pavimento. Ebbi l'impressione che le mille facce lottassero una contro l'altra e cercassero di formare l'immagine gentile di mio zio, in una sorta di estremo saluto. Mi sembra che a mia volta gli dissi uno strozzato «Arrivederci». Ma ormai ero già sulla strada e un rivolo sottile di materia decomposta mi seguì sul marciapiede, inzuppato di pioggia. Il resto è buio. Terrore. Nella strada bagnata non c'era nessuno e a nessuno al mondo avrei osato rivelare quello che era accaduto. Mi incamminai senza meta verso sud, alle pendici di College Hill e oltre l'Ateneum. Poi imboccai Hopkins Street e attraversai il ponte, entrando nel quartiere degli affari, dove gli alti edifici sembravano proteggermi, come tutto ciò che è moderno e materiale protegge il mondo dai sortilegi e dai pericoli dell'antichità. L'alba spuntò grigia a oriente, disegnando il contorno delle arcaiche colline e dei campanili e attirandomi misteriosamente verso la casa dove il mio lavoro non era ancora finito. Alla fine, inzuppato e senza cappello, mi diressi al colmo della confusione verso la terribile porta di Benefit Street che avevo lasciato socchiusa e che ancora sbatteva in piena vista dei vicini ai quali non osavo rivolgere la parola. La putredine era scomparsa, perché il terreno ammuffito era poroso. Davanti al camino non c'era più traccia della gigantesca forma umana ripiegata che la muffa e l'umidità avevano disegnato fino a quel momento. Guardai il lettino, le sedie, gli strumenti, il cappello che avevo dimenticato e la paglietta dello zio. Ero soprattutto confuso e non riuscivo a stabilire quale fosse il sogno e quale la realtà. Poi riuscii a pensare con maggior chiarezza e mi resi conto di aver vissuto un'esperienza più orribile di qualunque incubo. Seduto, cercai di immaginare quel che era accaduto, senza compromettere la mia sanità di mente e di decidere quel che potevo fare per mettere fine all'orrore, ammesso che fosse reale. Non mi era sembrato di materia, né di etere, né di qualunque altra sostanza concepibile dall'uomo. Dunque si trattava di una emanazione estranea, un vapore vampiresco simile a quello che i contadini di Exeter sostengono librarsi su certi camposanti. Sì, era questa la chiave. E di nuovo guardai il pavimento davanti al camino, dove muffa e depositi di umidità avevano preso forme così grottesche. In 10 minuti avevo deciso e raccolsi il cappello. Andai a casa, feci un bagno, mangiai. Più tardi ordinai per telefono un badile, un'ascia, una maschera antigas militare e 6 contenitori di acido solforico. Doveva essere tutto consegnato la mattina dopo alla casa di Benefit Street, davanti alla porta della cantina. Fatto questo cercai di dormire e siccome non ci riuscivo, ingannai l'attesa leggendo e componendo inutili versi per combattere il mio stato. Verso le 11 del mattino seguente cominciai a scavare. C'era il sole ed ero contento, ma ero ancora solo perché, sebbene avessi paura della cosa spaventosa che stavo cercando, non avevo il coraggio di parlarne con nessuno. In seguito accennai qualcosa a Harris per pura necessità e perché i racconti bizzarri che aveva sentito dai vecchi lo disponevano, per quanto poco, alla credulità. Mentre spalavo la terra maleodorante davanti al camino e il badile tranciava i funghi facendo scorrere un icore giallognolo, il pensiero di quello che avrei potuto scoprire mi diede i brividi. Ci sono segreti del profondo della terra che non fanno bene all'umanità. E questo mi sembrava uno di essi. La mia mano tremava visibilmente, ma ancora scavavo. E dopo un po' riuscii a stare in piedi nella grande buca che avevo fatto. A mano che la fossa diventava più profonda, la larghezza era di circa 2 metri, il cattivo odore aumentava e non ebbi più alcun dubbio che tra poco sarei entrato in contatto con la cosa infernale le cui emanazioni avevano infestato la casa per 1,5 secoli. Mi chiesi a che cosa avrebbe somigliato, quali fossero la sua forma e sostanza e quanto grande l'avessero resa i lunghi anni in cui aveva succhiato la vita altrui. Dopo un pezzo salì in cima alla buca, livellai la terra che avevo spalato e sistemai 2 grossi contenitori di acido sui lati, in modo che al momento opportuno avrei potuto rovesciarli in rapida successione. Poi spalai la terra sugli altri 2 lati, lavorando con calma e indossando la maschera antigas quando il puzzo si fece insopportabile. Ero snervato dal pensiero di trovarmi a pochi centimetri dall'orrore sconosciuto che si trovava in fondo alla fossa. All'improvviso, il badile colpì qualcosa di più morbido della terra. Rabbrividii e fui tentato di uscire dalla buca, nella quale ero immerso ormai fino al collo. Poi mi tornò il coraggio e alla luce della torcia elettrica spalai altro terreno. La superficie che misi a nudo era scivolosa come la pelle di un pesce, semivitrea. Una sorta di gelatina, in parte imputridita e pressoché opaca. Continuai a scavare e vidi che aveva una forma ben definita e che la materia era ripiegata intorno a una specie di fessura. La parte esposta era grande, più o meno cilindrica, come un'immensa canna fumaria da stufa di colore bianco-azzurro, piegata a gomito e larga 70 centimetri nella parte più ampia. Continuai a scavare, finché tutto a un tratto balzai fuori dalla fossa e cercai di allontanarmi dalla cosa spaventosa. Senza perdere tempo rovesciai i 2 contenitori di acido solforico e il liquido corrosivo precipitò nella buca sepolcrale. Sull'inimmaginabile mostruosità di cui avevo visto il gomito. Non dimenticherò mai il vortice accecante di vapori giallo-verdastro che uscirono dalla fossa mentre l'acido precipitava. La popolazione della collina ricorda quel giorno come il giorno giallo, perché orribili e virulenti fumi si sprigionarono dagli scarichi delle fabbriche nel Providence River. Ma io so che la provenienza dei vapori era un'altra. Si racconta inoltre che un orrendo boato si levò da una condotta d'acqua difettosa oppure dal gasdotto. Ma ancora una volta avrei potuto raccontare la verità se ne avessi avuto il coraggio. Fu un'esperienza assolutamente terrorizzante e quasi non mi rendo conto di come ne sia uscito vivo. Dopo aver versato anche il 1/4 contenitore d'acido, svenni. Avevo dovuto maneggiarlo da solo e i vapori cominciavano a infiltrarsi nella maschera antigas. Quando mi ripresi vidi che dalla fossa non uscivano più miasmi. Vuotai i 2 contenitori che restavano senza particolari risultati e dopo qualche tempo cominciai a riempire la fossa con la terra che avevo ammucchiato. Finì verso il crepuscolo, ma ormai il terrore aveva abbandonato la vecchia casa. L'umidità non aveva il fetore di prima e gli strani funghi si erano essiccati, riducendosi a una sorta di polverina grigia che somigliava a cenere. Uno degli orrori profondi della terra era perito per sempre. E ammesso che ci sia un inferno, deve aver finalmente ricevuto l'anima maledetta di quell'essere. Livellando l'ultima palata di terra, piansi la prima delle molte lacrime che ho versato alla memoria del mio caro zio. La primavera successiva, il giardino della casa sfuggita non presentava più tracce di erba pallida e vegetazione abnorme. Poco dopo, Carrington Harris la affittò. È ancora un posto che mette i brividi, ma la sua stranezza mi affascina e al mio sollievo si mescola una strana tristezza quando penso al giorno in cui verrà abbattuta per far posto a un chiassoso negozio o a un volgare condominio. I vecchi alberi spogli nella corte hanno cominciato a dare piccole, dolci mele e l'anno scorso gli uccelli sono tornati a fare i nidi in mezzo ai loro rami contorti, contorti, contorti.